No pride for some of us without liberation for all of us. Consigli di lettura e di visione in vista del Rivolta Pride di Bologna. Il film consigliato in occasione del Pride 2022 è Pride, un film del 2014 diretto da Matthew Warchus. Pride racconta la storia vera di Mark Ashton. Siamo a Londra nel 1984 e Mark è un giovane attivista gay e membro della Young Communist League, che inizia a sostenere una lotta che vede uniti minatori vessati dalle scelte politiche della Premier Margaret Thatcher e persone gay e lesbiche, vittime dello stesso sistema. Preso dall'entusiasmo, propone la sua idea nel corso di una riunione e, nonostante molti scetticismi, ottiene il supporto di 6 compagni, 5 uomini e una donna, per la creazione del gruppo Lesbians and Gays Support the Minors, il cui scopo è quello di raccogliere donazioni nella comunità gay e lesbica londinese in sostegno dei minatori. In seguito ad una serie di resistenze allo scetticismo di alcuni paesani, ma soprattutto dei minatori che ritengono inaccettabile l'aiuto da parte della comunità gay e lesbica, il gruppo viene invitato in paese per essere ringraziato pubblicamente. La conoscenza diretta, l'entusiasmo dei giovani attivisti gay e lesbiche e la consistenza delle donazioni che riescono a raccogliere sciolgono pian piano i pregiudizi della piccola comunità chiusa e tradizionalista e spianano la strada a una stabile solidarietà. Ciao Debs, ho finito da poco Middlesex di Jeffrey Eugenides, non so se si pronuncia così il cognome. Mi è piaciuto tantissimo per la parte di accenni storici che fanno tutto un excursus sull'immigrazione, la Grecia, la Turchia, l'America degli anni 20, 30, 40 e poi finisce negli anni 70. E sul fatto della questione intersex, comunque ermafroditismo, la visione molto personale del protagonista. Tutte le varie implicazioni sia della classe sociale in cui era, del momento storico, della famiglia che probabilmente era poco abituata a avere a che fare con le persone intersex. E quindi mi è sembrato un libro molto molto bello, che doveva durare di più, però comunque molto molto bello. Buongiorno a tutte e tutti da Frey. Il mio consiglio di lettura in vista di questo Pride 2022 è un libro che di prima acchito non verrebbe da leggere, perché ha una brutta copertina e perché il titolo con cui è stato tradotto in italiano, Il caso Eddy Belghel, pubblicato da Bompiani nel 2014, non rende pienamente giustizia al lavoro di Edouard Louis, scrittore e studioso di scienze sociali che ha raccontato in questo romanzo una parte della sua vita, completando poi il percorso della narrazione del sé con altri 2 volumi usciti nei successivi 4 anni, sempre per Bompiani, Storia della violenza e Chi ha ucciso mio padre. A un finire avec Eddy Belghel, questo è il suo titolo originale, veramente molto più efficace perché rimanda all'idea di farla finita con una persona, è il racconto della dura crescita del protagonista, Eddy, vecchio nome dell'autore, nel contesto della Piccardia operaia, con un'identità che non si rispecchia nella norma dominante, fonte questa di grande sofferenza. Basterebbe l'incipit del romanzo a farlo capire. Della mia infanzia non ho alcun ricordo lieto. Non voglio dire che in quegli anni io non abbia mai provato dei sentimenti di felicità o di gioia. Semplicemente la sofferenza è totalitaria. Ciò che non rientra nel suo sistema lo fa scomparire. È una storia dura, questa, fatta di enorme violenza, di un contesto operaio maschilista e violento, in cui l'affermazione di Eddy si fa strada a fatica. Ma attenzione, non è solo l'imposizione di una norma maschile ad ogni costo a generare questa sofferenza nel protagonista, ma è anche la povertà. Il romanzo di cui vi stiamo parlando non è infatti soltanto la storia di una faticosa emancipazione e ancor prima di una faticosa accettazione di sé da parte di un giovane uomo che sa, che conosce la sua omosessualità ma fa fatica a parlarne. È soprattutto la narrazione della crisi e della decadenza della Francia periferica e lavoratrice, piegata dalla deindustrializzazione e dall'impoverimento sociale e culturale. È questa narrazione di questo mondo che viene messa al centro parlando della famiglia Belghel. Un padre operaio che perde il lavoro quando non riesce più ad alzarsi dal letto per problemi alla schiena, una madre casalinga e poi badante, La consapevolezza e soprattutto i soldi che mancano costantemente anche per dare delle cure dentarie ai propri figli, la televisione e l'alcol per riempire le giornate. Bene, sono questi gli elementi che costruiscono il volto attuale di quella rude razza pagana che era la classe operaia francese. Una classe operaia francese scomparsa dalla dimensione pubblica per la crisi delle industrie e dall'eclissi del Partito Comunista, che torna a far capolino sui mass media solo per essere accusata di fornire la base elettorale al Front National, oggi Rassemblement National, per colpa della sua ignoranza. La classe ouvrière, come scopriamo dal libro di Édouard Louis, passa le sue giornate in una quotidianità triste, fatta di disagio, di mancanza di prospettive, di una sofferenza che si converte in odio per il diverso, sia esso un arabo, un ebreo o un ragazzo che vuole studiare anziché giocare a calcio. Édouard Louis ne è consapevole e racconta la sua storia per ricostruire un percorso di allontanamento dalla famiglia e dal paese come maniera per essere veramente libero di scegliere, ma nel non lasciar scampo a chi quella libertà non è riuscito a dargliela, come i suoi genitori, emette il vero atto di accusa che è indirizzato allo Stato, al capitalismo, alla borghesia della capitale, che stanno condannando alla povertà e alla sofferenza. Di nuovo la parola sofferenza, una parte importante del paese, i più poveri, che vengono per questo anche giudicati. Il mio consiglio di lettura è quindi Édouard Louis, il caso Eddie Belghel, Bompiani, collana romanza 2014. Buon Pride 2022 a tutti e tutte da Frey. Abbiamo ascoltato i consigli di Sara, Silvia e Frey. Io sono Debs e ci vediamo il 25 giugno a Rivolta Pride di Bologna. Non so se lei l'ha notato, ma in questi giorni Bologna è piena di omosessuali e di lesbiche. Lei cosa ne pensa di questa cosa?